Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 3 aprile 2015. Aree marine protette e impianti eolici. Il matrimonio è possibile. Nel Mediterraneo e nel Mar Nero, le aree marine protette possono convivere con piattaforme eoliche offshore. E questo è il risultato a cui è giunto il progetto europeo di ricerca COCONET, che in Italia è stato portato avanti dall'Istituto di Scienze Marine del CNR e dal Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare, il CONISMA. La progettazione di campi eolici nel Mediterraneo dovrà ora seguire le linee guida tracciate da biologi e ingegneri di COCONET, che hanno anche individuato alcune aree dove i venti sono adeguati alla produzione di energia senza effetti negativi sulla biodiversità e sul rispetto degli ecosistemi. Fin qui la notizia del 3 aprile 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente, in questo 2012. Federico Boero, docente dell'Università del Salento e ricercatore ISMAR CNR, è il coordinatore per l'Italia del progetto COCONET. Il progetto COCONET è finanziato dal 7° programma quadro dell'Unione Europea. Quello che ci viene chiesto è di fornire linee guida per creare aree marine protette, reti di aree marine protette in Mediterraneo e Mar Nero. Insieme ci viene anche chiesto di fornire linee guida per verificare la possibilità di istituire anche in Mediterraneo e Mar Nero impianti eolici offshore. Impianti eolici offshore che non sono attualmente presenti in questi due bacini, ma che sono invece molto presenti nei bacini settentrionali delle coste europee. Per il 2015 quindi dovremmo fornire all'Unione Europea le istruzioni per come ottenere questi risultati. I campi eolici potrebbero essere dentro reti di aree marine protette o potrebbero esserne al di fuori. Bisognerà valutare l'opportunità di fare l'una o l'altra scelta. In questo progetto ci sono ecologi che studiano la protezione dell'ambiente marino e ci sono ingegneri che studiano come fare gli impianti eolici. È bene che lavorino insieme, perché ci possono essere controindicazioni a fare una cosa oppure l'altra, e quindi cercheremo di dare una visione molto bilanciata di queste possibilità. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.